forte cor, monte scuota, o prego, o pianto. Mio gran padre, Vitellia per fratello, qui porta ancor le preci. Come i germinio, e vicendevole fiamma, l'anima nostra ardeva. Con vincolo di pace, se unirmi con sorte, concertai con l'amore, con la sorte. La macchina struggeva, il giuramento, e l'industria d'amore agivano al vento. Ma mio Geminio uccise, tolse a Roma la pace a me lo sposo. Tu scaglia impetuosa, polvere dopo intendo, e in questo punto alle genti latine giuro stragi, terrore, scempi e ruine. Lucio si chiami, al reo colà il castigo del suo fallire scritto. Quando